Information.

Sì, ma un po' però, no? Ieri lei di sé che vediamo. Ho pancato, però ieri gli ho messo di più, ma ne ha c'è ci rimaccio. Ok. Beh, io ho ucciso. Stavolta ieri di sé non ho appoggiato. Quindi ho messo un muso allo stesso esterno. Di e un muo, brama d'anche cioè a sapere. Se di all'asta aveva da casa, dovrei a glaucoma e si è siete se. E ho mai un suco. Io ho ne va. Ho fatto mai sa diavo. Ma io c'è chi me ne mamma che che. Non c'è chi ne sa un dio, di dio di ma non può bere. Ma io sono su di me va. Ne ha tre tre. Ok, non c'è la zacco per so per un. Sono la pena. Ho per un di. E non ho mai. Già sì io. Ma di ne ne fai. E di ne qua ho bero un. Ho bero un invece se. Sai a che no? E di ne bussino. Ne mo la yare che a mi acci mo di mo già na ma no. Ne mo di mo già ye che ma no no. Sai a che no? Ne mo. E uo ne bussino mo. Ne e lo ne di ye chira na ma na basa. Ye kache na ye bussa. O si a ye no kwe. Ne bussino ni di ye no o yare ni ya di ye di ye. Na be si ni fiu du nu mi ye. Na mi yare kwa yare fe bie ni ye ma mi mo ja. Obero ne timi chira sa ni ye ma wo yu. Oni pele ni onu obero ne ibe chira se. Mo ja no a. Ye twima mure bi no. Ene na ma na nya se ni yare. Ye so so obero na chira dra. Ye fa sa ni yare se si obero. Ye na fo mo nya mo sa bo. Sa obero ne nya ka na se na je na nya na ho dro ko wi de wure mo ne be fo ko sia o. Na so un koma na o ko shi na sa. Na ere obero no ate ki mo nya na de. Another 62